Las mujeres de mi generación abrieron sus pétalos rebeldes, de rosas, camelias, orquídeas y otras hierbas, de saloncitos tristes, de casitas burguesas, de costumbres añejas, sino de yuyos, peregrinos entre vientos. Porque las mujeres de mi generación florecieron en las calles, en las fábricas, se hicieron hilanderas de sueños. En el sindicato organizaron el amor. Le donne della mia generazione schiusero i loro petali ribelli non di rose, camelie, orchidee o altre piante da salottini tristi, di casette borghesi, di logore usanze, ma di erbe selvatiche erranti nel vento. Perché le donne della mia generazione fiorirono nelle strade, nelle fabbriche, divennero tessitrici di sogni e nel sindacato diedero vita all'amore. Es decir, dijeron las mujeres de mi generación, como en la lucha golpe a golpe, en el amor beso a beso. Y en las aulas argentinas, chilenas, uruguayas, supieron lo que tenían que saber para el saber glorioso de las mujeres de mi generación. Infine, dissero le donne della mia generazione, come nella lotta colpo su colpo, nell'amore bacio su bacio. E nelle aule dell'Argentina, del Cile e dell'Uruguay appresero ciò che dovevano conoscere per il sapere glorioso delle donne della mia generazione. Minifalderas en flor de los 60, las mujeres de mi generación no ocultaron ni la sombra de sus muslos, erotizando con el mayor de los calibres los caminos duros de la cita con la muerte. Porque las mujeres de mi generación bebieron con ganas del vino de los vivos, acudieron a todas las llamadas y fueron dignas en la derrota. In minigonna, agli albori degli anni 60, le donne della mia generazione non nascosero nemmeno l'ombra delle gambe. Portarono l'eros a livelli incandescenti negli ardui sentieri dell'incontro con la morte. Perché le donne della mia generazione bevvero con gusto il nettare dei viventi, risposero a ogni chiamata e nella sconfitta non persero la dignità. Nelle caserme le chiamarono puttane, ma non si sentivano offese, perché erano abituate a un florilegio di epiteti. Minas, grelas, percantas, cabritas, minones, gurisas, garotas, jebas, cipotas, viejas, chavalas, señoritas, hasta que ellas mismas escribieron la palabra compañera en todas las espaldas y en los muros de todos los hoteles, porque las mujeres de mi generación nos marcaron con el fuego indeleble de sus uñas la verdad universal de sus derechos. Conocieron la cárcel y los golpes, habitaron en mil patrias y en ninguna. Lloraron a sus muertos y a los míos como suyos. Dieron calor al frío y al cansancio, deseos. Al agua sabor y al fuego lo orientaron por rumbo cierto. Las mujeres de mi generación parieron hijos eternos. Cantando Summertime les dieron teta. Fumaron marihuana en los descansos. Danzaron lo mejor del vino y bebieron las mejores melodías. Porque las mujeres de mi generación nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos, compañeros, sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias. Finché loro stesse non scrissero la parola compañera sul retro e sulle facciate di ogni albergo. Perché le donne della mia generazione impresero con il fuoco indelebile delle unghie la verità universale dei loro diritti. Conobbero le carceri e le percosse, abitarono nessuna in mille patrie, piansero i loro defunti e i miei come fossero propri, colorarono il freddo di calore e la stanchezza di desideri, diedero sapore all'acqua e al fuoco, una rotta sicura. Le donne della mia generazione partorivano figli eterni, li allattavano cantando Summertime. Fumavano marijuana nelle pause, danzavano sotto gli effluvi del vino migliore e si abbeveravano delle migliori melodie. Perché le donne della mia generazione ci insegnarono che la vita non si dona a sorsi, compañeros, ma tutta ad un fiato e fino in fondo. Fueron estudiantes, minatrici, sindicalistas, operai, artesanas, actrices, guerrilleras, hasta madres, e amanti nei momenti liberi della resistenza. Perché le donne della mia generazione rispettavano soltanto i confini tracciati al di là delle frontiere, regalavano affetto al mondo, erano combattenti dell'amore, miliziane delle carezze, ti amo il loro sigillo. Si spesero senza riserve e dissero che bastava appena. Furono dichiarate vedove in Cordova, in Tlatelolco, vestirono di nero in Puerto Montt e São Paulo, e in Santiago, Buenos Aires o Montevideo fueron las únicas estrellas de la larga noche clandestina. Sus canas no son canas, sino una forma de ser para el quehacer que les espera. Las arrugas que asoman en sus rostros dicen he reído y he llorado y volvería a hacerlo. Las mujeres de mi generación han grabado algunos kilos de razones que se pegan a sus cuerpos. Se mueven algo más lentas, cansadas de esperarnos en las metas. I loro capelli bianchi non sono altro che una ragion d'essere per la fatica che li attende. Le rughe che solcano i loro volti dicono ho riso, ho pianto e lo farei di nuovo. Le donne della mia generazione portano nei loro corpi il peso della saggezza che non va più via. Si muovono più lentamente, stanche di aspettarci alla meta. Scrivono lettere che incendiano i ricordi. Scrivono versi sulla sabbia e le donano al mare. Ci radunano al desco e ci danno la luce. Escriben cartas che incendian las memorias. Escriben verdades en la arena y las ofrendan al mar. Nos convocan y nos paren sobre la mesa dispuesta. Ellas dicen pan, trabajo, justicia, libertad. E la prudenza si trasforma in vergogna. Le donne della mia generazione sono come barricate. Proteggono e incoraggiano, infondono fiducia e rendono innocua la lama dell'ira. Las mujeres de mi generación son como las barricadas, protegen y animan, dan confianza y suavizan el filo de la ira. Las mujeres de mi generación son como un puño cerrado que protege con violencia la tenereza del mundo. Las mujeres de mi generación no gritan porque ellas derrotaron al silencio. Si algo nos marca, son ellas. La identidad del siglo son ellas. Ellas, la fe de vuelta, el beso clandestino, el retorno a todos los derechos, un tango en la serena soledad de un aeropuerto, las cartas que hacen besar al cartero, las manos que sostienen los retratos de mis muertos. Lo son todo y todo lo sostienen, porque todo viene con sus pasos y nos llega y nos sorprende. No hay soledad donde ellas miren, ni olvido mientras ellas canten. Intelectuales del instinto, instinto de la razón, prueba de fuerza para el fuerte y amorosa vitamina del débil. Loro, la fede restituita, il valore nascosto in un libello, il bacio rubato, il ritorno a tutti i diritti, un tango nella quiete solitaria di un aeroporto. Le lettere che ti spingono a baciare il postino, le mani che tengono le foto dei miei defunti. Loro sono tutto e tutto sostengono, perché ogni cosa segue i loro passi, poi ci raggiunge e ci sorprende. Non vi è solitudine su cui il loro sguardo si posi, né oblio finché loro canteranno. Intellettuali dell'istinto, istinto della ragione, prova di forza per l'uomo vigoroso e amorevole soccorso del tempo. Así son ellas. loro sono così. Las únicas. Le uniche. Irrepetibles. Irripetibili. Imprescindibles. Imprescindibili. Sufridas. Tormentate. Golpeadas. Picchiate. Negadas. Negate. Pero invictas. Ma indomite. Mujeres de mi generación.